gestire lasciù, ma bisogna che sappia. No, non so proprio niente del castello. Non Non so so mai, mai, la sì. guarda, a divertimenti non so mai nada. Perché il divertimento a me mi ha sempre. Non mi ha mai piaciuto il divertimento, no? Mi piace. Sapare. Mi piace la campagna, mi piace lavorare in campagna, però divertirmi mai. Non sono mai divertita, non sono mai andata fuori dopo le 8 la sera. Non mi ricordo mai di essere andata una volta perché alle 8 sono andata a letto, anche da ragazza. Cosita, su. Ecco, qualche volta mi viene in mente scrivere quella. Ma ascolta, dimmi quella che diga. Ascolta, devi sulla prima, quella dell'inverno, l'ultimo inverno del nonno. Ah, te Sì. la sai, ne sì un pochettino. Dai allora, passa via. Te la davo o te la dici, guardi se sbaglio, sa? Perché mi vengono i vuoti di memoria. Perché tu oramai, ho 83 anni preso. Te guardi se la dico su giusta, questa mi parte. Allora, o neve, neve bianca, com'è bello il tuo candore. Tu scendi sulla terra senza mai fare rumore. Pare tu voglia dire pace a voi tutti in terra. E a te, uomo, ricordati, non fare mai la guerra. Il nonno e il nipotino sono su alla finestra, che guardano dai vetri la neve a cader lesta. La neve copre tutto. O neve, neve bianca, hai coperto pure la mia panca. Non posso scendere e guardare la gente che sulla strada stanno per passare. Ma ora devo stare alla finestra per guardare quei bambini che alla neve fanno festa. Ormai sono vecchio, non posso più sperare. Su quella bianca neve ancora scivolare. Due grosse lacrime gli scendono dai suoi occhi. Vuole il buon nonno protestare, forse vorrebbe come un bambino ancora ritornare. Sai, nonno, dice il nipote, io ti devo dire questo, voglio diventare come te, un uomo onesto. Poi alza un po' la testa e vede il nonno che con la mano saluta la finestra. O neve, neve bianca, io ti devo salutare. Il mio viaggio sta per terminare, non posso pretendere di più. Ringrazio della vita tutti i giorni te, o Gesù, e ai bambini che con te vogliono giocare, ti prego, neve, non fare loro male. Auguro loro giusto il suo cammino e tanto più facile il suo destino. La bellezza del tuo candore riassomigli alla serenità del loro cuore. Intanto il nonno chiude per sempre gli occhi e in pace si addormenta, mentre fuori cade la neve lesta. Che piace la stacchiva. Ma le diversi anni, quella è una delle prime che ho scritto stacchive. Aspetta che devo fare il caffè bel bega adesso. Sì, sono da Besenelle, è sempre Laura in campagna. Sì, perché me lo scrivo, perché non ho nessun studio per modo, no? E dopo anche quando che io ne va a scuola, non è che ci sono stata una prima, no? E dopo me lo so, ma viene in mente questa di scriversi poesie, qualche poesia, ma era anzianotta quando ho cominciato a scriverle, perché prima non era buona neanche di fare il diario. Quella ti piace, voilà che mi ride fuori, ah? La ti piace quella? Sì, l'ho scritta che era una pitelotta, Gabriele Pindes, erano tre compagne, siccome veniva su Cassadore, allora che diceva su una delle mie compagne, lei Tomoros, come si fa anziana, tra pitelle. Son chi, son mi, son la Carmela, son chi al Busental, son chi con due amiche, ma son chi proprio a Polsar. Quando la sera mi vago a dormire, dormo e sogno d'amor. Penso sempre al mio Guido che, si è fatto, che mi ha dato il suo cuore. Cosa importa del resto se si trova Besen? I nostri cuori lo sanno che si vogliono ben. Penso sempre a quel giorno così bello, che vestito come un colonnello all'altare mi porterà. davanti a Gesù ci metterei il legame per non separarci più. Questo è il mio desiderio, desiderio che mi tormenta. Altro che mangiar polenta coi funghi al Bujental. Solo il mio guido è gioia di paradiso. Al vedere il mio ben Nasim diventa umile, umile come un canarin. Mi trovo al Bujental, ove l'aria non fa mal, il riposo è la mia vita. Dopo tanta fatica mi voglio domandare: perché con me vi sono due zitelle, che era mia e l'altra? Sono giovine, non belle, tutte e due da maridar e non si danno affatto questo affare a destrigar. Chissà quanta invidia avranno nel giorno del mio matrimonio. Le lacrime e il cordoglio, i nemus, le faranno andare. Insomma, siamo in tre, ci facciamo un buon caffè, ce ne infischiamo di laggiù, a Beseno non torniamo più. Aspettiamo qua il garzone, ossia il gagà, che domenica varcherà il Saint-Gilles Caminet e sarà qua pronto da Carmela con un biglietto. Vieni con me, Carmela, a Beseno ti va a portare. Non mettere i piedi in terra perché ti faranno male. Vieni con me, andremo in gondoletta, andremo in bicicletta e le due zitelle faremo in cicar. Non l'ho mai detta a nessuno, ma no, perché non l'ho mai detta a nessuno, no? Perché non l'ho mai detta a nessuno. Sempre qua. Perché io ho una lira, un soldo. Guarda che mi quello non mi ricordo, che dai miei genitori, che al bar, e tabacchino, e mi conteva dopo i miei genitori, pagava i soldi, insomma. Che loro, i miei genitori, la comprata dal 1924, sta casa qua, dal comune di Folgaria. Ma prima la gai in affitto e dopo la crompata. Che è per bacco, se stavo vivi, perché la crisi è proprio. Ti mangiavi le patate con la scorza. Altro che mangiare le mondaie adesso, non ne vanno neanche a quelle. Si mangiava le patate con la scorza, papà. Te l'hai capita quella lì? Solo che non te l'hai provata. E ti auguro che te la provi. Perché è difficile, sa, passare quella vita lì. Quando è l'ora di cena, ti butta lì un piatto di morsa o una scudella di latte. Panno che nera, perché noi eravamo noto qua, so che mia povera mamma, poveretta, a fare la parte per tutti, che toccava fare un po' pan e un po' polenta. Amici assurdi a poter tirare. E dopo per cavarne la magna, che hai i brugnoi. Sai cosa che hai i brugnoi? Ecco i piccoli, neve a cavarne la fame lì ancora. O le polentine, lei, quella pianta che viene su, che fa il coso rosso, rosso, no? Noi quando veniva da Gola, che era lì. Diverse piante che arrivavano fuori dal bosco, non fa mai perché non era da mangiare, Dio. E ne fermavano col carretto, perché tiravano fuori la legna col carretto, non mi adesso col. L'unica cosa che aveva un mulo o un cavallo era sta qui. Gli altri erano tutti a carretti, a spare, a tirare col spacco. Ah, questa è una vitaccia che passano altri, non ve la auguro a volte perché. Mi scrivo quando che bisogna che mi venga un po' di ispirazione, se no non riesco a scrivere, no? Perché mi se per modo di venire a domandarmi, fammi, no, non sono buona, mi devo de fare una poesia per un altro. E dopo, quando che go, manca per esempio tanta roba, l'ho vista in televisione, e certe volte anche col dolore, con la passione. Anche quando che era, per esempio, aveva scritto Il tormento dell'anima, di quei che coppa per modo. Era perché vedeva qui tutti messi ai carabinieri, e dopo mi ha una passione, mi ha anche le parole, te le volte dita su, quella che te la sa, quella del tormento dell'anima, di quei che coppa. Saria, anima mia, io non ti vedo ma ti sento, vuoi proprio tormentarmi ogni momento, rovini tutti i giorni miei, anima, io devo proprio dire che ci sei. Credevo nella notte potessi ancora dormire, ma ecco che tua anima ci fai sempre sentire. Allora mi alzo dal letto e vado alla finestra. Guardo le stelle nella notte oscura. O stelle, io vi sto qui a guardare. Stelle, ho 20 anni, ho voglia anch'io di amare. Ma poi abbasso la mia testa e guardo le mie mani che hanno sparato. Mani vigliacche, perché l'avete fatto? Ritorno nel mio letto, ma mi continuo a rigirare. Nella mia mente mi viene la voglia di pregare. Ave Maria, madre di tutti noi, Ave Maria, perdonami se vuoi. No, non son degno di essere perdonato. Voglio qui in carcere scontare il mio peccato. Ma tu, ragazzo, che sei fuori dalle sbarre, quello che ho fatto io non lo devi tu imitare. Torna, ragazzo, torna quando è sera, torna con la mamma a recitare la preghiera. Ave Maria. Bisogna che mi venga un po' di ispirazione, se no non sono buona di farla, no? Certe volte anche quelle della guerra l'ho tutte fatte perché vedo in televisione, ma dopo mi viene sta voglia, come? Ma dopo passa mesi non mi viene più mai niente, e dopo tutto andiamo poi mi viene la voglia di destinare. Sì, dunque, io avrò avuto 11-12 anni e andavo a scuola e il maestro appena arrivato a scuola mi disse: devi prepararti a imparare una poesia perché sta arrivando la regina Margherita, la mamma di Vittorio Emanuele sarebbe stata. No? E allora mi metto in un angolo della stanza e là studio questa poesia, leggo e leggo finché l'ho imparata, poi tutti insieme verso le 11 andiamo in piazza a aspettare la regina. E arriva una macchina davanti, e lenta lenta e prosegue, poi dietro la seconda macchina c'era la regina Margherita e si è fermata in piazza, però si è fermato non solamente noi scolari, anche altre persone, il sindaco e gente del municipio. Ecco, arriva la regina, io mi avvicino, mi fa salire sul... allora c'era un scalino all'esterno delle macchine, mi fa salire su questo scalino e le dico la poesia. Allora tutta felice mi prende e mi dà un bacio, vuole sapere il mio nome, però non l'ho più sentita. Che sarebbe stata la mamma di Vittorio Emanuele III. Questo dunque, io avevo 11-12 anni del 23-24. Un'altra volta è venuto anche il re, però non si è fermato. La gente era in piazza e lui veniva dalla strada di Folgaria. Le macchine, 3 o 4 macchine erano, sono passati dalla piazza senza fermarsi. Però si capisce che erano stati avvisati perché c'era il sindaco in piazza, c'era gente. Mi piaceva leggerle e studiarle, così ho sempre avuto passione per le poesie. Allora, quando una ragazza o un ragazzo, insomma, volevano studiare, bisognava metterli negli istituti, perché allora non c'era la comodità come dopo di partire da Caliano con la corriera, andare a dover ritornare a scuola, ritornare così, allora non c'era la comodità. E allora bisognava metterli negli istituti e si capisce che la mia famiglia non aveva, insomma, non poteva farlo, se no io volevo essere maestra. È sempre stato il mio sogno. Il mio maestro era maestro Dal Bosco d'Amori, da Viteva Amori. E sta qua, mi sono stata 4 anni da quel maestro lì, molto bravo. E la prima maestra era la maestra Battisti, forse te l'avrei sentita nominare. E dopo la maestra Fattarsi e dopo il maestro Dal Bosco, erano 3 soli maestri allora in paese. Botte. Allora botte, mi dava mucche di botte mio padre. Perché non andavo a scuola? No, me ne va dai contadini a menare il bue, che prendevo la polenta brutolata. nascondevo la borsa della scuola con i quaderni, la buttavo sotto il carro, nascondevo, e montavo sul carro e andavo dai contadini a ledrare il Trentino, a ledrare Zaldo, in Trentino, no? Sai cosa così? Ledrare, dar la terra alle piante del Zaldo. Allora bisognava condurre il bue diritto in mezzo alle bine, in mezzo ai sulchi, perché se non andavi fuori spaccavi su tutto il Zaldo. Allora Bruno, attento, il vecchio Iker, da volevo, guarda di andare dritto con quel bue. Fortuna che era bravo, perché delle volte c'erano quelli che scornavano anche, voi cattivi, e io non ero mica un leone.